fragil, la nostalgia è tu fragil. Brasil sta lì, l'Italia chi? Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Pallone basso, radente, Fred va a terra, calcio di rigore, calcio di rigore e ammonizione nei confronti di Lovren. Le proteste della Croazia, l'azione merita sicuramente di essere rivista. Allora, il pallone basso di Oscar, arriva Fred. Tocca appena Lovren, Fred va giù come se l'avesse preso chissà cosa. Ha appena appoggiato il braccio sinistro Lovren su Fred. Secondo me non era calcio di rigore. Ammonito Lovren intanto, le proteste che ci sembrano del tutto giustificate di Niko Kovac nei confronti del direttore di gara per la decisione di concedere il calcio di rigore. Qui davvero servirebbe, a nostro avviso, la traduzione in giapponese di sudditanza psicologica, come diceva Marino Bartoletti nell'intervallo di questa partita. Appena toccato, non è che ogni contatto determini un fallo, non era, a nostro avviso, calcio di rigore. Insomma, siamo arrivati al 12 giugno 2014 per scoprire che le squadre di casa al mondiale ricevono un trattamento di favore spesso, sai che novità, come se il Brasile fosse il primo della fila. Oggi tutti contro Yuichi Nishimura, questo giapponese che ieri ha di fatto deciso Brasile-Croazia con questo calcio di rigore, rigore che non c'era, almeno io la penso così, la pensano così un po' tutto il mondo, e quindi via sospetti, complotti, le solite polemiche, Blatter, la FIFA, rigore che non c'era per tutto il mondo tranne che per una persona, Filippo Scolari. E nem vou analisar a arbitragem, para mim foi pênalti. Eu vi 10 vezes o lance agora lá dentro e para mim foi pênalti. Agora, isso é uma coisa que cada um interpreta, se o árbitro interpretou, entendeu? E algumas faltas que para mim foram faltas, o árbitro interpretou diferente. Alguma falta de cartão que poderia ser cartão não foi dado, mas é uma interpretação do árbitro e pronto, encerramos o jogo assim. Tivéssemos ganho ou não, ou perdido o jogo, a interpretação é dele. Ci vuole un po' di coraggio, a dire ho visto 10 volte l'azione e vi dico che il calcio di rigore c'era, è questione di interpretazioni. Questa volta l'arbitro ha interpretato che quel tocco di Lovren su Fred poteva essere calcio di rigore. Così diceva Scolari, CT di un Brasile che ha francamente deluso. 800 24 00 24, aspetto le vostre chiamate in diretta per dirci cosa ne pensate del Brasile di ieri sera. È o no favorito per questo mondiale? Cosa ne pensate di Neymar? Cosa ne pensate degli arbitri? Anche Diego Armando Maradona pochi minuti fa ha detto rigore dubbio, il Brasile avrebbe potuto perdere. Rigore dubbio, non c'è dubbio. Secondo me nella storia dei mondiali si sono visti anche episodi più scandalosi di quello, insomma, che abbiamo visto ieri. Io non capisco lo scandalo, è sempre successo, poi comunque è tutto da dimostrare che il Brasile non avrebbe vinto. Comunque ci siamo forse dimenticati di Byron Moreno, di Gandur 2002, l'arbitro che spinse la Corea del Sud in semifinale, oppure la Spagna aiutata nell'82, l'Argentina trascinata al titolo nel 78, l'Inghilterra del 66, il Cile nel 62, insomma, di cosa stiamo parlando? 800 24 00 24, certo, la credibilità di Blatter e della FIFA in questo momento sono sotto zero, ma queste cose succedevano anche quando a fare il presidente della FIFA c'era qualcun altro e non Sepp Blatter. Tutti convocati. cosa vi resta della prima serata del mondiale? 800 24 00 24, per dircelo in diretta. A me resta, a parte che ripeto, impazzisco per la teoria dei complottisti, quelli per cui il Brasile ha vinto il mondiale con 6 turni d'anticipo sulla finale di Rio. Oggi c'è anche chi dice, scrive tra le righe, che il Brasile deve vincere questo mondiale anche per evitare rivolte in piazza, gli incidenti che anche ieri ci sono stati a San Paolo. Fanno davvero impazzire questi discorsi. Quello che mi lascia la prima serata di questo mondiale è l'immagine di un Brasile imperfetto, di un Brasile fragile, un po' difensivamente, soprattutto fragile dal punto di vista psicologico, perché ho l'impressione, anche guardando negli occhi dei giocatori brasiliani ieri durante l'inno all'inizio della partita, al momento del vantaggio della Croazia, vantaggio meritato, che forse questa squadra non ha le spalle sufficientemente larghe per sopportare tutta la pressione di un mondiale casalingo. Vero Pier? Pierluigi Pardo. Buongiorno. Ciao Pier. Dove sei? Buongiorno. Dopo alle 14 sono in macchina tornando da Mangaratiba all'albergo. Dalle 14:30 avremo un telefono vero, quindi adesso non vi lamentate, non vi lamentate più di tanto. E chi si lamenta, Pier? No, beh, i telefoni diciamo che non è che sono proprio straordinari. Sì, ma tra l'altro in Italia oggi c'è anche qualche operatore telefonico che è andato in down, e quindi non ci si collega a internet, non si chiama su alcuni cellulari. Adesso evitiamo di stare a fare nomi, insomma. Quindi ci siamo fatti la pelle. Pier, tu hai visto il Brasile o no ieri? È caduta la linea? Ecco, hai visto o no il Brasile ieri? Ma io il Brasile non l'ho visto, sinceramente, insomma, sarei ridicolo se lo scherzi, sono partito alle 20. È caduta la linea. Allora proviamo a recuperare il numero di Pierluigi Pardo, perché così è davvero complicato. Intanto mi suggerisce Franco Piantarida sudditanza psicologica in giapponese, si dice Shinri Tekina Fukuju. Shinri Tekina Fukuju, sudditanza psicologica detta in giapponese. Vi leggo qualche titolo di giornale croato. Oggi: hanno sparato alle spalle di Kovac, Niko Kovac, il CT della Croazia. Oppure ancora Nishimura, che viene descritto come killer giapponese. Oppure la conferma di un altro motivo per sospettare dell'integrità della FIFA. Anche gli argentini non l'hanno presa benissimo. A proposito di quello che è successo, i giornali argentini che questa mattina titolano senza mezzi termini, Brasile che ha giocato in 12, Brasile che ha giocato in 12, quindi ha vinto, e quindi autorizzando qualunque sospetto. Andiamo in Brasile da José Altafini, c'è? José, ciao, buon pomeriggio. Ciao, grazie anche a voi. Com'è, caldo? Qui caldissimo, lì? Anche qui, perché sono a Torino. Ah, quindi sei finto in Brasile. Dimmi un po' cosa ne pensi del Brasile di ieri. Ma è normalissimo quello che è successo, una squadra che dando come favorita, chiaramente è entrato in campo con una grande preoccupazione di vincere, poi ha trovato una squadra che si sapeva già che è fortissima, la Croazia, che è quella che passerà il turno col Brasile, secondo la mia opinione. Poi si è visto chiaramente nell'inno nazionale la emozione, perché i brasiliani sentono molto il patriottismo, no? Erano tutti emozionati, qualcuno addirittura che piangeva, e questo un po', non so se ha frenato un pochettino la tranquillità dei brasiliani. Però poi naturalmente in più ancora prende un gol di autorete, chiaramente le cose non andavano molto bene. Sì, c'era o no il calcio di rigore? Il calcio di rigore non c'era, però mi vergogno, mi arrabbio di vedere tutte queste cose qua, i giornali che sono vergogna, ladri, queste cose qua, perché in Italia ormai non succedono queste cose qua, non succede che una squadra vince per un rigore non dato, un rigore dato così, no? Sono cose normalissime queste qua. L'arbitro è stato fregato dalla grande esperienza di Freddy, che si è buttato molto bene a terra. Però sono cose che succedono, non è che hanno dato rigore perché il Brasile deve vincere. Sì, poi non è la prima volta che la squadra di casa gode di qualche favore. Ma succede spesso, sono episodi in Italia che ha vinto con un gol fantasma. Mm. Sì, no, ti... ma poi oltretutto il Brasile ieri aveva un altro problema, che ha giocato in 9, perché Hulk non è un giocatore brasiliano, secondo me. E poi Fred, che è un giocatore rapinatore di aria, è uno che fa gol, appena tocca la palla fa gol. Ieri ha provocato solo il rigore, del resto non ha toccato palla, capisci? E sai cosa vuol dire una squadra giocare in 9? Vuol dire che si fa fatica. Pier, ci sei? Sei tornato? Ci sono, spero. Ciao José, amico mio, come stai? Ciao, non sono più il tuo amico, mi dispiace, sono conoscenti. Ah, ecco, certo. Tu mi hai abbandonato e allora io ti ringrazio lo stesso. Ciao. Comunque ciao. Ti voglio bene lo stesso, vai. Pier, ci racconti come si è svegliato il Brasile questa mattina? Come? Allora, si è svegliato con la soddisfazione per il risultato. Dovrebbe essere stato male, insomma. Può essere un campione. Niente, oggi siamo sfortunati con le linee telefoniche, sarà una giornata lunga e calda. José, a proposito, io sono qui, spiace, a Torino, se volete posso andare qua. a proposito del Brasile, ho l'impressione, visto il Brasile ieri, che non avesse tutti i torti Lippi quando nei giorni scorsi diceva: attenzione, questo Brasile è un gruppo forse troppo giovane per reggere la pressione che significa un mondiale in casa, in Brasile soprattutto. Non ci credo. Io ritengo che è giusto quello che hanno detto, che questo sarà un campionato bellissimo, perché la Croazia è fortissima anche, come sarà una bellissima partita stasera tra Spagna e Olanda. Guarda che ingredienti, sono tantissimi i giocatori, sono tantissimi giocatori bravi, squadre brave, per esempio c'è anche il Cile che gioca con l'Australia, sono tutte squadre buone. Io penso che sarà un bellissimo campionato, nonostante tutti dicono che sarà un disastro eccetera. Però devo dire un'altra cosa, che tutti i favoriti sono tutti quei 4-5 squadre, che poi non è vero che magari può succedere una sorpresa come stava succedendo ieri. Neymar può essere il leader di questo Brasile, può essere l'uomo copertina del mondiale. Neymar è uno che fa dei gol, ma non è un gol. Il Brasile manca col centravanti che ci ha fregato la Spagna, che è Diego Costa. Sì, che non perdonerete mai. No, perché non perdonerete mai? Se Scolari non ha mai chiamato un giocatore nazionale, cosa deve fare lui? Lui ha l'ambizione di un giocatore, è giocare in nazionale. Se nessuno lo chiama, va a giocare con l'altro. No? Beh, ma ai tuoi tempi, se uno non veniva chiamato in nazionale, stava a casa, punto. No, il problema è che nei miei tempi, chi giocava adesso non veniva chiamato dalla nazionale. È successo con Giulio Botelli, Giulinho, e è successo anche con me. Quando, solo che l'errore che ha fatto Diego Costa è che lui non ha chiesto alla federazione se loro convocavano o no. Io l'ho chiesto 5-6 mesi prima e loro mi hanno detto che, seguendo la loro direttiva, non convocavano i giocatori di giocava all'estero. E io sono andato con l'Italia, perché il piacere di un giocatore è giocare in mondiale, no? Ma questo Brasile lo vince o no il mondiale? Secondo me la favorita è la Germania, che... io ho scommesso sulla Germania. No, io sono sempre favorito alla Spagna, quindi stasera voglio vedere, perché ha cambiato gioco, non è lo stesso gioco di prima, perché prima si basavano molto sul Barcellona, e con Diego Costa faranno un gioco diverso. Quindi tu continui ad osservare la Spagna. Questa sera è interessante, Spagna-Olanda, anche se non è la rivincita della finale del Mondiale del 2010, no. Perché è difficile paragonare anche solo l'intensità, il livello di intensità di queste due partite. Però sicuramente... Io sono curioso di vedere la Spagna, perché la Spagna è una squadra che ha cambiato tipologia di gioco. Hanno seguito sempre il Barcellona negli ultimi tempi e adesso hanno cambiato, hanno messo un centroavanti di punta, cosa che non facevano mai. Ma se qualcuno paragona questo Brasile a quello dell'82 con Serginho in attacco, cioè senza centravanti. No, ma Freddy è un centravanti che con molta soli da gol lui fa gol. Però il Brasile manca, il Brasile deve correggere, non può lasciare fuori un giocatore come William, che è un giocatore che punta la difesa. Tanto è vero che ieri il miglior giocatore del Brasile è stato Oscar, perché Oscar punta la difesa, ha fatto tantissime azioni belle. Se c'era William sarebbe stato due giocatori che facevano lo stesso tipo di gioco. Lì Filippo Scolari deve pensarci un po'. Sì, Filippo sarà chiamato a cambiare. Qualcosa. Sarà cambiato a chiamare qualcosa. È troppo maturo. Grazie José. Ciao, saluto a Pardo, dici che ti voglio bene lo stesso anche se lui mi ha abbandonato. Sì, ma anche noi gli vogliamo bene se si fa a trovare con la linea telefonica. Grazie José, 800 24 00 24. Ci sono già Luigi da Pisa, Vincenzo da Pescara, c'è chi dice che all'elenco dei grandi errori arbitrali abbiamo dimenticato Grosso, fulminato da un cecchino in Germania nel 2006. Noi facevamo l'elenco degli errori arbitrali in favore delle squadre di casa, poi la storia del calcio è pieno di rigori regalati. Torniamo subito. Tutto molto bello. Tutti convocati. Che è andato peggio del cellulare di Pardo c'era in Brasile ieri. Questo è l'audio della cerimonia di inaugurazione, non funzionavano i microfoni, si sentiva solo il ritorno del playback. Ah, poi c'è lo scandalo del campo di Manaus, dove sabato sera giocheranno Italia e Inghilterra. Non so se avete visto le foto oggi su tutti i giornali, gli inglesi vanno giù duri, parlano di una vera e propria farsa. In Italia mi sembra che ancora non si siano accesi i riflettori su quello che andremo a trovare a Manaus sabato notte. 800 24 00 24 in attesa di capire se Pierluigi Pardo riesce a essere dei nostri. Luigi da Pisa, Luigi, sì, buon pomeriggio, prego. Senti, io ho una statistica tutta mia. Sì. Se l'Italia supera qualche finale può arrivare fino in fondo. Perché questo? Perché statisticamente c'è questo, voi fate i conti: 1970 finale persa, 82 finale vinta, 94 finale persa, 2006 finale vinta, ogni 12 anni. Sì. Ok? Negli anni precedenti alle vittorie siamo sempre usciti ai quarti. E quindi? Quindi se superiamo i quarti di finale sicuramente diciamo arriviamo alle semifinali. Questa è la mia statistica. Vinciamo il mondiale. Vabbè, di mezzo ci sono il Brasile e la Spagna, quarti di finale potenziali. Potrebbe esserci la Colombia negli ottavi, che è un'altra partita non da poco. Secondo me prima ci sono Uruguay e Inghilterra, perché è tutto da discutere che l'Italia passi questo girone. Certamente ne ha le possibilità, ma è un girone che vale già quello come un quarto di finale. Vincenzo da Pescara, Vincenzo. Senti, buongiorno a tutti. Sì, io volevo prego. Dire qualcosa rispetto alla tecnologia. Sì. Ieri ho visto con piacere che un po' di tecnologia è entrata. Sì, lo spray. Nei mondiali ho visto lo spray. Che non tecnologia. Non si potrebbe invece portare almeno in queste manifestazioni così importanti la moviola, due o tre arbitri che stanno da qualche parte, che guardano e che possano cambiare solamente se sono estremamente convinti di quello che vedono dalla moviola, quello che è il giudizio dell'arbitro sul campo. Sì, mi chiedo perché se non c'è la moviola in tutte le altre competizioni del mondo, comprese competizioni importanti come ad esempio la Champions League, mi chiedo perché debba essere inventata per il mondiale. Detto che il problema del gol non gol da quest'anno è stato risolto. Ieri abbiamo visto alcune prove tecniche. Ti posso dire un'altra cosa? Prego. Almeno nel momento in cui si danno ammonizioni o si fanno espulsioni, in quel caso si potrebbe invocare invece il risultato della moviola per annullare le ammonizioni o diciamo quello che può essere conseguente all'espulsione del calciatore per un presunto fallo che è stato mal interpretato dall'arbitro. Non so, a me la moviola non fa impazzire, se non per il gol non gol e magari per poche altre ristrette casistiche legate comunque ad azioni che si sono chiuse sul campo. Possiamo magari ragionare su un fuorigioco, però ci fermiamo lì. Il problema è che poi sul campo vanno degli uomini e ad esempio ieri certamente Yuichi Nishimura aveva un compito difficile, con addosso gli occhi di 60.000 persone, con una grandissima pressione, con un rigore che non c'era, ma ripeto, però un contatto che c'era, perché il contatto c'è stato e quindi si può sbagliare, come Nishimura ha fatto l'interpretazione. Emanuele, dalla provincia di Ancona. Buon pomeriggio. Prego. Io volevo sottolineare invece il fatto media, giornalisti eccetera, anche Sky, non hanno sottolineato a dovere quello che sono stati gli episodi chiave della partita. Mi spiego, non solamente il rigore, ma ci sono state anche situazioni in campo per cui falli non fischiati a centrocampo. Il 3-1 è stato susseguente a un fallo non fischiato a favore della Croazia. Il fallo, pseudo fallo su Giulio Cesar, l'abbiamo visto che non era il gol regolare. Quindi a me la cosa che ha stupito è i giornalisti italiani che hanno adottato un metodo cosiddetto democristiano, senza evidenziare che il Brasile non ha meritato di vincere la partita. Stop! Sì, il Brasile non ha meritato di vincere la partita, è anche vero che la Croazia ha trovato il vantaggio e fino al momento dello svantaggio poi ha fatto poco forse per provare a vincerla. Poi c'è chi, Michele, scrive al 349-238-6666 per chiedere la prova televisiva per Fred e la squalifica. C'è chi dice il Brasile è la Juventus del Mondiale dopo il rigore di ieri, la Juventus del Mondiale. Poi c'è chi dice il furto del Brasile è stato così grosso che a casa mia è scattato l'allarme. Marco, abbiamo capito che vincerà il mondiale, chissà come hanno interpretato la gomitata di Neymar, comunque questo è il Brasile più scarso che abbia mai visto. Stefano da Udine, e poi c'è sempre la gomitata sul calciatore croato di Neymar. C'è anche chi scrive che l'arbitro non è stato tenerissimo con i brasiliani, ha sbagliato alcune interpretazioni su calci d'angolo, rimesse laterali, questione di interpretazioni. Chi c'è? Davide da Roma? Davide? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo, ecco, avevo anche qualche altro episodio da aggiungere alla lista dell'ascoltatore precedente, perché secondo me c'era anche, per esempio, ci sono stati minimo un paio di falli molto simili a quelli che hanno causato, diciamo, il calcio di rigore dalla parte invece dei croati, che non sono stati dati. Mi sembra un paio al centrocampo e uno forse addirittura in area. Poi c'era, ho capito che da nuove disposizioni sulla classe arbitrale alcuni falli vanno adesso sanzionati direttamente col rosso, e Neymar ha guardato praticamente. Sì, Neymar poteva essere. E ha proprio poteva essere bene, ecco. E poi cos'altro volevo dire? Ecco, c'era anche stato un episodio dove Olic, che è il mio preferito della Croazia, tra l'altro, che ha saltato, ha rubato il pallone, stava andando in porta ed è stato fischiato un fallo di mano che non ha preso assolutamente la mano. Quindi la complessità della cattiva direzione arbitrale è più ampia del rigore. Ecco. Sì, io però quello che non capisco, ho detto che sicuramente Nishimura ha arbitrato male. Poi c'è chi dice il contatto l'avete visto soltanto voi, mettetevi gli occhiali, si è tuffato, prova TV, simulazione. In realtà il contatto c'è stato, perché quella mano appoggiata c'è stata, poi non era calcio di rigore, Fred si è lasciato andare, però non è una simulazione da 2 metri staccato il difensore, quindi per carità Nishimura ha sbagliato, però io non riesco a capire quale sia lo scandalo, quale sia la novità rispetto a quello che è successo tante altre volte in passato con la squadra padrona di casa, con la squadra più forte, aiutata dall'arbitro di turno. L'elenco l'abbiamo fatto prima, possiamo anche rifarlo: Byron Moreno con la Corea del Sud, Gamal Gandur, chi se lo ricorda, arbitro egiziano di Spagna-Corea del Sud, la vera partita scandalo del 2002, oppure c'è anche chi scrive al 349-238-6666 ricordando gli arbitraggi pro Spagna, Spagna-Honduras nel 1982, l'arbitro si inventò un rigore per far pareggiare la Spagna, Dante da Busto, e poi l'Inghilterra nel 1966. Insomma, dove sta la novità che nei mondiali le nazionali di casa vengano aiutate? Igor da Piacenza, Igor. Ciao Carlo, sono un croato che abita da tanto tempo in Italia. Arrabbiatissimo. No, non sono arrabbiatissimo. Deluso, perché secondo me gli arbitri non erano all'altezza, perché tutti quelli sbagli che avete elencato, voi sia te che gli altri ascoltatori, dimostrano solamente che l'arbitro non era all'altezza della partita. Così. Sì, questo non era un arbitro con poca esperienza, già arbitrato anche nel 2010. Però Igor, ti faccio parlare con un altro croato che invece, leggevo ieri sera su Twitter, molto più arrabbiato, Ivan Ljubicic. Ciao Ivan. Buongiorno. guarderai o no il resto del mondiale? No, no, assolutamente. Devo ancora vedere se guarderò il calcio in generale, perché veramente ho perso tutte le pazienze che avevo. È stato uno scandalo secondo te? Ma sì, ma non c'è scandalo. Purtroppo mi aspettavo una cosa del genere simile, sai, che l'arbitro comunque si gioca in casa, se no viene giù lo stadio e di qua di là, però proprio regalare la partita, no, proprio hanno esagerato in tutti i modi. È però un po' nella storia dello sport che l'atleta di casa, la squadra di casa venga in qualche modo favorito. Guarda, io appartengo a uno sport dove non è così, e quindi non... Beh, so la Coppa Davis non è una passeggiata per chi gioca in trasferta, o no? Per il tifo, però noi abbiamo 9 arbitri di linea in campo, tutti stranieri, poi abbiamo un giudice di sedia, poi abbiamo, non so, 12 telecamere, che un giocatore può sempre alzare il dito e vuole vedere il marchio, quindi come sport assolutamente facciamo tutto il possibile e immaginabile per far vincere il migliore. In calcio non mi è sembrato proprio il caso. Ti è piaciuta la Croazia ieri sera? Sì, molto, devo dire, anche perché abbiamo giocato senza il miglior attaccante, che è Mandžukić, però il centrocampo ha tenuto benissimo. Kovacic, dopo che io sono un grande tifoso milanista in generale, ma Kovacic mi piace molto, però purtroppo era un po' giù, mi ha un po' deluso, però sai, tutti gli altri hanno fatto molto molto bene. Purtroppo il portiere insomma ha preso dei gol che secondo me potevano evitare, ma insomma tutto in generale credo che la squadra non può assolutamente dire niente contro la prestazione. Ma dove arriva questa Croazia, al di là che tu non guarderai più il mondiale, forse il calcio? Diceva prima Altafini, i croati devono stare tranquilli, comunque arriveranno secondi, si qualificheranno, sono una bella nazionale, giovane, che può andare avanti. Guarda, non lo so veramente, perché ho perso proprio la passione, mi è caduto giù il mondo del calcio, onestamente, perché non... posso dire con grandissima tranquillità, non me ne frega più niente, perché adesso probabilmente la prossima partita, quando farà fatica Croazia, la aiuteranno un po', e poi magari passano il turno, poi giocheranno con un'altra grande che deve perdere, cioè non ci credo più. Brasile ti è piaciuto? Al di là dell'arbitro? Sai, la cosa più bella che ho visto è proprio quando i giocatori stavano entrando in campo, perché li ho visti veramente brasiliani molto emozionati, che esistono, Thiago Silva con gli occhi rossissimi, Julio Cesar che dopo vino piangeva addirittura, quindi sai, è una pressione enorme addosso. Hanno comunque fatto molta fatica, poi adesso sicuramente si liberano un po'. Dal punto di vista di un croato, giocare contro il Brasile forse la cosa migliore è la prima partita, se c'è qualche speranza, però abbiamo capito che invece non c'era proprio speranza. Sì, poi magari partite come quella di ieri, una vittoria, possono anche servire a scaricare un po' la pressione, la tensione. Ivan, se hai un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi ho ancora una domanda e poi ti saluto. Convocati. Pierluigi, ci sei? Pier? Eccolo, collina milanese, per cui perfetta adesso. Che numero! Se pure questa, allora vuol dire proprio che è lo Spirito Santo che non collabora. Prova a consolare Ivan Ljubicic, che ha detto schifato da ieri, non guarderà più il mondiale, non guarderà più il calcio, tanto poi adesso in qualche modo aiuteranno la Croazia, magari nella seconda partita, ma è tutto finto, eh? Che te devo dire, Ljubo, cioè lo capisco, io capisco il dolore, esprimo la solidarietà totale, perché insomma quando gli errori arbitrali sono di questa categoria, sono riuscito finalmente a vedere le immagini, insomma stiamo parlando di cose che fanno anche pensare male. Insomma, ho sentito oggi il giudizio di Graziano Cesari, pesantissimo proprio sull'atteggiamento complessivo dell'arbitro, e questo è uno dei problemi, noi spesso ci lamentiamo del nostro campionato, ma a livello internazionale, soprattutto a livello mondiale, abbiamo spesso degli arbitraggi che, che sono incredibili, cioè in Inghilterra stanno ancora cercando la rionda per il gol con la palla dentro i 30 centimetri di Germania Inghilterra Bloemfontein. Sì, però ripeto, ecco, Pierre, non capisco dove sia lo scandalo, lo dico anche agli Ubo, nel senso che la storia dei mondiali è piena di questi episodi ed è piena del sostegno che spesso e volentieri viene dato ai padroni di casa per mille motivi, a partire da quelli economici. Da questo punto di vista mi sembra che ieri non sia successo nulla di particolarmente grave. No, però questo non vuol dire che va bene. No, non c'è dubbio. Ljubo. Poi io avevo letto anche dei giornali croati che il difensore Lovren, che ha fatto questo fallo famoso, no, è andato a chiedere sì. spiegazione all'arbitro, e questo gli parlava in giapponese. E questo in giapponese dice, ma cioè, a me non lo so, io cioè, continuo a meravigliarmi, cioè, non capisco, perché se questo dice secondo me fallo, per l'arbitro che secondo me doveva dire quello, cioè, gli parlava in giapponese quanto si era perso, cioè, è una roba incredibile. Cioè. Sì, c'è un collega giapponese che mi scrive dicendo che Nishimura... Mi arrabbio sempre e che il calcio non mi convince, cioè io non vedo una volontà generale di far credibile questo sport. Perché non mi dite che non si possono mettere le telecamere in un mondiale, non dico in tutte le partite al mondo perché sennò sarebbe veramente troppo costoso, ma in un mondiale che non si può fermare due secondi, vedere se fallo o no, che fa decidere una partita intera. Io non, cioè, ho sempre, dico, una volta per sempre ho perso proprio l'ultima goccia della pazienza e credibilità che era rimasta, perché ormai non ce la faccio più. Ciao Ljubo, un giornalista giapponese mi scrive dicendo Nishimura è famoso in Giappone per aver detto crepa ad un giocatore durante una partita, personaggino, eh? Ciao Ljubicic. Ciao, ciao. Magari quello gli ha detto in bocca al lupo, quello ha detto crepi, no? Sì, no, ha detto crepa. Arbitraggio, no, lo so. Arbitraggio discutibile, però. No, non discutibile, allucinante a senso unico. Fernando da Verona, Fernando. Sì, pronto, grazie della convocazione. Prego. Allora, secondo me avrebbe stabilito il Guinness dei primati se avesse annullato l'autogol, perché chiaramente lì ci avrebbe avuto una fantasia non indifferente, ma forse ci sarebbe arrivato anche a questi estremi. Comunque non capisco come mai in un mondiale non ci siano gli arbitri di porta, che possono far danno, ma il fatto che non ci siano può essere un precedente. Terza cosa, l'arbitro giapponese è stato l'ultimo arbitro che ha arbitrato il Brasile in Sudafrica quando è stato eliminato, e quindi sapeva benissimo che se voleva andare avanti nel mondiale doveva cambiare atteggiamento per farsi perdonare la partita appunto dei mondiali di Sudafrica, dove aveva anche espulso un giocatore del Brasile, se non ricordo male. Io dubito che Nishimura, Piera, vada avanti molto in questi mondiali, dubito. Sì, però ha ragione l'ascoltatore, che non era la scelta, alla luce di questo precedente, non era certamente la scelta più logica, più azzeccata, quindi... ragazzi, che vi devo dire, siamo alla partita 1, ne mancano 63 e ne vedremo delle belle, ecco. Però insomma la speranza è che vedremo pochi risultati di questo tipo. Il problema che diceva Ljubo, che è un problema complessivo di credibilità del mondo del calcio, è un problema che esiste, perché più il calcio cresce per importanza, per popolarità, per diffusione a livello mondiale, per passioni, per business, e più gli episodi arbitrali clamorosi, ripeto clamorosi, perché poi ci sono cose sulle quali andiamo avanti a discutere dopo anni e fanno parte anche della bellezza e del fascino di questo gioco, ma le cose clamorose tipo ieri sono un attentato alla credibilità di questo gioco, non c'è discussione. Sì, anche se c'è qualcuno, io ho sentito ieri Vialli a Sky dire che quella manina del difensore sulla spalla in realtà insomma può aver tratto in inganno un arbitro, anche un arbitro in buona fede, perché Gianluca, sto scherzando ovviamente, vuole fare strada nel mondiale, allora... vuole restare a commentarlo fino in fondo, però io lo ripeto, guardate che secondo me abbiamo visto rigori più scandalosi nella storia del calcio, nella storia dei mondiali, di quello che è stato dato ieri a Fred. Giacomo da Padova. Giacomo. Mm. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione, un saluto in particolare a Pierluigi Pardo. Ciao. Niente, io volevo sapere, solo fare due domande. La prima è, non si può fare arbitrare un arbitro giapponese perché da loro non c'è il calcio, secondo me. E l'altra, non mi convince l'Italia che spostando Chiellini in fascia, l'ha detto anche lui, l'ha detto anche Antonio Conte, Chiellini è centrale, anche se nasce di fascia. Mentre l'ultima cosa, poi vi saluto, secondo me l'Italia deve vincere contro l'Inghilterra per andare avanti. Se perde è per noi già finita. Sì, se perde c'è l'impressione che il nostro mondiale possa essere finito, in caso di pareggio poi rischiamo di giocarci tutto contro l'Uruguay nell'ultima partita. Comunque il nostro è un girone complicato, lo sapevamo, è colpa nostra, ci siamo condannati a quel girone con quel pareggio folle contro l'Armenia, partita che abbiamo interpretato come un amichevole non era. Grazie Giacomo. Pier, resta lì perché poi parliamo anche dell'Italia, tu stai partendo per andare a Manaus, adesso però c'è l'angolo delle scommesse. Quote e pronostici. Dopo il successo con polemiche del Brasile all'esordio, torna in campo alle 18 ora italiana il girone A con la sfida di Natal tra il Messico e il Camerun. Sono queste le quote sniper per questa partita. L'1, la vittoria dei centroamericani, è quotata a 2,20, l'X è a 3,10, il 2 invece è quotato a 3,50. Gli occhi del mondo però sono rivolti a Salvador, dove alle 21 ora italiana si gioca il primo big match di questo mondiale. Nel girone B c'è Spagna-Olanda. L'1, la vittoria degli spagnoli, è quotata 1,80, l'X è a 3,30, il 2 invece è quotato 5. Sempre nello stesso girone, ma stavolta a Cuiabá a mezzanotte, c'è Cile-Australia. L'1 è quotato 1,38, l'X è a 4,50, il 2 invece è quotato 8,50. Tornando in Italia, infine, c'è il ritorno dei play-out per restare in Serie B tra Varese e Novara al Franco Ossola. Alle 20,30 si parte dallo 0-2 per i lombardi dell'andata. L'1 è quotato 1,90, l'X è a 3,30, il 2 invece è quotato 4,25. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Un saluto a tutti da Sandro Piccinini. È tutto pronto ormai. Tra poco si parte con una canzone eccezionale sui mondiali di Daniele Brogna. Proprio lui, l'uomo dell'anno. Attenzione, l'attesa è finita. Si comincia. Forse impossibile, penso al 2006, chissà cosa darei, ma per rivincere io penso che serve un culo così grande. Secondo me questo rigore da Fred. No, assolutamente, dai. Cerca l'appoggio Fred, lo tocca, l'errore di Lovren è che gli mette una mano sulla spalla e inganna l'arbitro, ma questo non è mai rigore secondo me. Ma neanche secondo me, non... Fred è stato furbo, diciamo così, a sfruttare la piccola ingenuità di Lovren, ma il contatto fisico è consentito nel calcio, questo non è rigore. Sì, anche un arbitro come quello di ieri sera, Pierre, si può scrivere alla categoria fortuna, culo? Sì, direi di sì, insomma, vogliamo sperare che possa essere inserito in questa categoria qui, no? Che possa essere considerato un elemento assolutamente fortuito, anche se certamente si può anche pensare male, però certo fa parte delle cose che non sono strettamente legate al comportamento dei giocatori in campo, quindi assolutamente sì. Ma io penso che questo fatto che noi avremo un girone molto allenante possa rappresentare anche un'opportunità, insomma, nel senso che da un lato è chiaro che è più probabile uscire nella prima fase rispetto a gironi più comodi, più morbidi che ci sono in giro per il mondiale, ma dall'altro il fatto di essere in questo girone con tre squadre delle otto che hanno vinto il mondiale e appunto inserite in questo gruppo D, secondo me ci dà la possibilità da subito di vivere un certo tipo di adrenalina, un certo tipo di sfida, un certo tipo di tensione agonistica, e questo in prospettiva potrebbe anche farci bene. Sì, la cosa incredibile è che il nostro mondiale rischia di essere davvero tutto un mondiale fatto di sfide senza domani, perché c'è questo girone, potrebbe esserci la Colombia ad esempio negli ottavi di finale, sappiamo che nei quarti potrebbe esserci o Spagna o Brasile, poi eventualmente le semifinali, la finale. Sarebbe davvero da questo punto di vista un mondiale incredibile, superiore come difficoltà, come intensità, anche anche a quello del 1982, dove arrivammo in fondo passando attraverso la doppia sfida con Argentina-Brasile, che erano due delle nazionali favorite. A proposito dell'Italia, poi sentiremo anche le ultime, anche con il nostro Dario di Ranocchia. Esatto, con il nostro Dario Ricci, Ranocchia su Twitter: è stato un piacere far parte di questo gruppo, mi sono proprio divertito, ora lascio a voi la parte difficile, in bocca al lupo azzurri. Quindi diciamo ufficializzato che le due riserve, Mirante e Ranocchia, tornano a casa. Decilio resta in Brasile malgrado l'infortunio, il lieve infortunio muscolare che gli farà saltare Italia e Inghilterra, e spero null'altro, anche se in realtà nazionale senza interisti. Sì, beh, non è una novità, no. Credo che l'ultimo interista in un mondiale in nazionale risalga al forse 2002. Grazie. Però se qualcuno, oppure 2006 Materazzi, esatto. Comunque non è questa una novità, credo non sia neanche un problema, a meno che non vogliamo riaprire il capitolo dell'Inter fatta solo da giocatori stranieri. Tra parentesi, quest'anno c'è un'altra squadra che ha spesso giocato con 10-11 stranieri ed era il Napoli, senza che nessuno sollevasse grandissimi scandali. 800 24 0024, in attesa di andare anche da Dario Ricci. Giuseppe dalla provincia di Olbia. Giuseppe, buonasera. Prego. Niente, io sono, ho 49 anni e sono cresciuto a pane, rugby e football americano, oltre che calcio. E sono rimasto veramente deluso da questa mancanza di senso della sportività, a maggior ragione che l'arbitro era un giapponese. Sono anche un appassionato di storia e i giapponesi sono noti per la loro abnegazione e per il loro senso dell'onore. Questo mi ha lasciato un po' interdetto, cioè non si può più contare, fidare in niente, in nessuno. Cosa ci resta? Cosa ci resta, Pierre? Ma secondo me la stiamo anche facendo un po' troppo lunga, Pierre. Sì, è una visione nichilista della vita e del mondiale, se posso permettere, nel senso che comunque sono d'accordo, cioè è chiaro che è un errore per me gravissimo, poi l'ho rivisto da poco, quindi l'ho visto da poco perché ero in aereo ieri notte, e sicuramente è pesante, e tra l'altro ho sentito anche Cesari, del quale mi fido abbastanza ciecamente, che parla di una condotta arbitrale a senso unico che fa anche pensare male. Ma possiamo dire che il Brasile, detto questo, il Brasile non vincerà il mondiale per gli aiuti arbitrali se la squadra sarà poi inferiore, se è quello di ieri sera. Sì, sì, se quello di ieri sera fatica molto, ma insomma, ora ieri sera si poteva essere anche una. Allora, innanzitutto l'abbiamo sottolineato anche ieri in fase di presentazione, la Croazia è una buona squadra. La Croazia, che ieri era senza Mandžukić, ha una struttura di centrocampo eccezionale, da squadra di altissimo livello sicuramente. Però insomma, sicuramente, mentre intanto c'è una lucertola di dimensioni gigantesche, un geco, il collega Pepe Ferrario mi segnala. Si chiamano iguana anche. No, ma non è un iguana, è un geco, che voglio assicurare tutti all'ascolto, è un geco come quelli che vedevo da bambino all'Argentario, quindi niente di clamoroso. No, quindi la Croazia è una buona squadra e su questo non ci sono dubbi. Il Brasile ha fatto ieri probabilmente meno di quello che avrebbe fatto in circostanze normali, perché la mia sensazione è che da quello che ho capito, da quello che ho letto, si è sceso in campo con un po' di braccino, con un po' di paura, con un'ansia da prestazione enorme, e certamente l'autogol dopo 10 minuti ha acuito questa sensazione. Poi delle incognite su questo Brasile ci sono in assoluto, nel senso che questa non è una squadra di grandissimi campioni, al di là di Neymar è una squadra di giocatori di buon livello, alcuni dei quali molto in avanti con l'età, ad esempio Giulio César in porta, Fregi, come lo chiamano loro, Fred è un giocatore buono, ma un nome eccezionale, come sottolineava Giuseppe prima. Il centrocampo è un centrocampo interessante, ma insomma, secondo me. E non è una squadra questa che probabilmente può uccidere Spagna, il mondiale, no? Come la Spagna negli ultimi anni, la qualità di giocatori che ha, al di là del logorio, insomma, è un'altra storia. Però la Confederations Cup dell'anno scorso ha dimostrato che il Brasile, poi in casa soprattutto, può trovare un'energia, un equilibrio, e poi questi sono tutti giocatori che hanno vissuto per questa manifestazione negli ultimi anni, quindi qualcuno si sarà anche un po' risparmiato. Io mi aspetto che sia una grande protagonista, però non è, dal punto di vista tecnico, secondo me non è la favorita assoluta, cioè non è la squadra più forte. Te l'ho detto, lo vince la Germania a questo mondiale. A proposito di pronostici, vi ricordo di mandare il vostro file audio 60 secondi secondi con il vostro pronostico per il mondiale, per convocato per un giorno, e poi come al solito a fine puntata premieremo il migliore di oggi. Roberto da Pavia, Roberto. Buongiorno, volevo solo intervenire sul rigore, no? Sì. Il rigore, secondo me, l'arbitro può essere ingannato dalla mano sull'attaccante. Quello che andrebbe invece punito, se veramente, è proprio l'attaccante, che si vede chiaramente che urla, si butta per terra, che fa una sceneggiata. Io sono milanista, ma uno che fa quelle sceneggiate lì è anche Balotelli, appena toccano si butta per terra, cercano proprio il rigore. Queste cose andrebbero sicuramente punite, perché a volte l'arbitro viene colpevolizzato, ma lui non può capire l'intensità della forza di una spinta con mille cose che deve guardare mentre sì, c'è quella manina lì. Io sono abbastanza d'accordo, c'è quella manina lì, il difensore è anche un po' ingenuo nel lasciare quella manina lì su Fred. Emilio da Bergamo, Emilio. E quindi? Prego. Allora, sarò molto polemico sulla faccenda del rigore, anche se avrete già detto tutto, più di tutto. Sì. Non esisterà mai un rigore così in nessun campo del mondo, però si sa, io ho 53 anni e quindi di campionati del mondo ne ho visti qualcuno, non mi scandalizzo per questo. Sono d'accordo con Pardo quando dice che non sarà per il rigore che il Brasile vincerà il mondiale, ma io aggiungo che il Brasile non lo vincerà proprio il mondiale, perché è una squadraccia, a meno che non migliori strada facendo. Io ho avuto una netta impressione che non c'è proprio la squadra, insomma. Sì, c'è un amico, Pier, che scrive e chiede quanto servirebbe a questo Brasile Diego Costa al posto di Fregi. Ma è stato ignorato, fra l'altro Diego Costa l'ha anche rimarcato più volte, facendo anche quasi arrabbiare gli spagnoli, nel senso che ha detto che lui si sente brasiliano al 100%, ma non ha avuto mai nessuna chiamata da parte di Scolari e quindi ha fatto le sue scelte. E onestamente faccio fatica, al di là dell'aspetto romantico, che vabbè, ovviamente è un'altra cosa, no? Perché se ti senti brasiliano, cioè io avrei delle difficoltà a giocare il mondiale con la Francia. Però insomma, detto questo, però dal punto di vista professionale lo capisco perfettamente. Questo è un giocatore che viene da una grande stagione, che meritava un'opportunità, tanto più che l'attacco brasiliano è un attacco abbastanza povero, dietro a Neymar c'è poca roba, no? E quindi io penso che ci siano dei punti deboli. Penso che ci siano dei punti deboli, però è anche vero che a me la Confederation l'anno scorso mi ha fatto abbastanza. Me la ricordo bene, nel senso che d'accordo, è una competizione che conta fino a un certo punto, però insomma il Brasile l'ha giocata per vincerla e l'ha vinta bene. Una finale contro la Spagna è veramente demoliti sul piano del ritmo e dell'intensità, quindi ci andrei piano, perché può darsi pure che il Brasile che abbiamo visto ieri fosse in qualche modo ancora imballato e impaurito. Adesso ha due partite sicuramente più semplici nel girone, potrebbe uscire dal girone con 9 punti, vincere come credo questo gruppo e poi presentarsi con la strada in discesa. Però che non sia una squadra perfetta, l'ho detto 5 minuti fa, lo ripeto, non è una squadra dominatrice assolutamente. Gianni da Lecce. Il calcio europeo è cresciuto negli ultimi anni, ragazzi. Sì, ma secondo me è il momento buono perché un'europea vinca in Sud America, cosa che non è mai capitata, non è neanche capitato il contrario, cioè che una sudamericana abbia mai vinto in Europa, credo che mai come questa volta, e secondo me la nazionale è la Germania, c'è la possibilità davvero per un'europea di sbancare in Sud America. Gianni da Lecce, Gianni. Sì, sì, salve. Molte cose sono state già dette dagli altri radioascoltatori, quindi il Brasile vincerà il mondiale solo se squadre come la Spagna, come la Germania, anche come l'Italia, magari non si trovano in forma al momento giusto, altrimenti non dico che sono ridicoli, ma quasi, perché hanno un paio di giocatori, l'altro resto sono soltanto giocatori di serie A normali, come ne abbiamo anche tanti noi, quindi questo volevo dire. Il rigore era ridicolo, il fallo di Neymar andava fatto con sanzionato con l'espulsione, quindi più di questo cosa vogliamo dire, insomma. Questi altri, se considerano così, io non lo so se continuerò a vedere il mondiale, quindi questo voglio dire, basta. Sì, c'è chi dice anche per fortuna che questo errore è avvenuto alla prima partita, le prossime 63 staranno più attenti. Io non ci scommetterei neanche un euro, Pier, su questo. Non scommetterei, però se si vuole pensare male, si può anche pensare che il Brasile abbia un po' esaurito il bonus, no? Nel senso, perché era, può avere un, tutto si può vedere nella vita, però certamente il tipo di situazione che c'è stata ieri, che è clamorosa, ha esposto questo problema all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. Insomma, io penso che tante volte giustamente si cerca di parlare di calcio, a me le moviole annoiano, io la mia speranza da telecronista quando faccio le partite, la mia speranza vera, ma proprio vera assoluta per il mio quieto vivere, è che non succeda niente, che non ci siano episodi arbitrali, perché per un telecronista è già una rottura di scatola enorme, figuriamoci per un arbitro o per un tifoso che cosa può essere. Quindi questa è la speranza, però è vero pure che questo fa parte del calcio, perché il calcio è uno sport che vive di episodi, di pochi episodi, per cui l'ascoltatore ha ragione, tu prova a dare il rosso a Neymar a non dare quel rigore e vediamo come finisce la partita, insomma, e questo è il motivo per il quale è vero che il campo conta sempre il campo, nel lungo termine sicuramente sì, secondo me nelle 38 partite di un campionato il campo conta sempre, o quasi, insomma, se c'è una distanza significativa fra due squadre vuol dire che comunque ci può essere anche stato qualche favore arbitrale, ma sì, su una manifestazione più corta invece può anche incidere di più. Intanto ci correggono gli amici da casa, è vero, il Brasile di Pelé ha vinto nel 1958 in Svezia e quindi una sudamericana ha già vinto dall'altra parte dell'oceano. Abbiamo raggiunto il nostro Dario Ricci. Sì, allora dai, parliamo un po' di Italia, della nostra nazionale. Siamo aggiornati sul fatto del campo che non era in ottime condizioni, credo che faranno di tutto per metterlo decentemente, quindi poi il campo penso che spero che verrà messo a posto, di conseguenza poi sia noi che l'Inghilterra comunque ci dobbiamo giocare, dobbiamo fare certi movimenti, sicuramente non con la palla alta perché loro sono fortissimi, quindi palla a terra, penso uscire fuori dalla loro marcatura sarà importante, e quindi vediamo, ci stiamo preparando. La prima partita potrebbe già essere decisiva, quindi poi mentre si gioca è normale che le condizioni climatiche ci possano condizionare, ma non penso che ci sarà un minimo di idea di accontentarsi di nessuna delle due squadre, perché sarà fondamentale comunque sia per tutte e due far bene e cercare di vincere, quindi quello poi insomma è una cosa, il clima da vedere in partita in corso che ancora non abbiamo provato, perché qua non c'è lo stesso clima di Manaus e quindi insomma già da domani in allenamento vedremo come sarà. Ciao Dario Ricci. Buon dia Dario De Janeiro, caro Giovanni. Sei in viaggio? Aeroporto, e fra pochino a mezzogiorno locale partiamo verso Manaus. Intanto do ospitalità al mio tavolo a un tifoso del Cile che trova appunto, si mangerà il suo panino qui. Gli azzurri sono già partiti proprio in questi istanti e chiaramente c'è la squadra da ridisegnare, no? Causa l'infortunio di Pesciglio, il prescelto per quel ruolo ormai dovrebbe essere cosa nota anche al vostro fuso orario è Chiellini a sinistra, Paletta al centro della difesa con Barzagli e Darmian a destra, dovrebbe essere questo al 90% lo schieramento scelto da Prandelli, e Palotelli poi di punta, il centrocampo diciamo creativo che conosciamo con Verratti, Pirlo, Marchisio, che poi di fatto sarà il nostro vero centravanti, questo dai gol di Marchisio dipenderà questo mondiale, e poi Candreva dall'altra parte, questo dovrebbe essere l'11 titolare. Insomma, possiamo anche cominciare a scommettere. Mi hai aiutato a capire, Pier, anche tu la parabola di Paletta. Sì, faccio fatica anch'io a capirla, onestamente, perché io non è che l'ho visto benissimo ultimamente, speriamo che faccia bene. Bonucci è chiaro che è un po' condizionato dal tipo di difesa, però comunque a 4 poteva giocare, può giocare, rimane ancora un'ipotesi, anche se subordinata in questo momento di minoranza, no? Rispetto all'idea invece che possa giocare Paletta. Lo stesso Ranocchia, che appunto ha appena twittato il suo addio. In bocca al lupo ai ragazzi, è un giocatore che non a caso Conte sta cercando per la difesa a 4 per l'anno prossimo, quindi insomma, qui è una scelta di Prandelli che qualche perplessità me la lascia sinceramente. Cassano ti ha mai raccontato qualcosa di Paletta? Cioè, ci sarà un motivo per cui Prandelli e non solo Prandelli si è innamorato calcisticamente di questo, no, di questo Paletta, difensore? Paletta è un ottimo giocatore, è un bravissimo ragazzo, l'ho anche conosciuto, insomma, persona molto, molto divertente e ha avuto una grande stagione, ha avuto una grandissima stagione. Sì, è un pessimo finale di stagione. Nell'ultimo mese e mezzo, sia un po' con il Parma che anche con l'uscita con la nazionale, abbia faticato, per cui insomma, io qualche dubbio lì ce l'ho, però del resto Ranocchia non rimane, e poi probabilmente anche Ranocchia qualche dubbio lo dava. Bonucci secondo me è la scelta più sicura, anche se è un giocatore più adatto per un modulo a 3 che un modulo a 4, però insomma pare abbia scelto Paletta, e quindi vedremo e valuteremo, speriamo bene, insomma, in bocca al lupo, non ci mancherebbe altro. Certo, a domani Pier, ci siamo ancora, no. Domani 17-18, sì. Anzi io lo lancio per tutto il mese del mondiale, tutti convocati, weekend raddoppia, oltre al tradizionale appuntamento la domenica dalle 17 alle 19, saremo in onda anche domani dalle 17 alle 18 per vivere tutta la vigilia di questo straordinario Italia-Inghilterra. A domani Pier. Sì, è sabato. Okay, perfetto. Domani è sabato, sì, anche sul fuso orario brasiliano. Dario, si capisce come è maturato questo sorpasso di Paletta in queste ore? Cioè, perché Prandelli si fida di lui, perché lo ha scelto, perché sacrifica Bonucci, in parte sacrifica anche Abate, che di fatto da oggi è riserva certificata di questo gruppo? Devo dire che la stima di Prandelli per Paletta è di lunga data, sicuramente anzi lui l'avrebbe convocato anche con discreto anticipo rispetto ai tempi che poi sono maturati. C'è poi da tener conto della posizione di De Rossi, che inevitabilmente ora con questa coppia di centrali sarà proprio il pendolo, no? Chiamato ad abbassarsi in fase di costruzione di gioco, ad alzarsi, insomma, gestirà proprio la sua posizione e la costruzione della manovra, anche il primo passaggio, diciamo, della manovra da par suo, e quindi probabilmente Prandelli ha scelto due centrali, vuole scegliere due centrali che gli diano assoluta affidabilità in marcatura, così come del resto hanno fatto anche nell'amichevole di Madrid con la Spagna. E poi c'è da tenere per ultimo conto anche delle cattive condizioni di forma di Abate, che nell'ultima uscita e anche in quella che è stata un po' tutto il percorso di preparazione è stato forse tra i meno brillanti in questo senso, Giovanni. Quindi, sì, e quindi sommate, si è giocato il posto da titolare, posto titolare che fino a un paio di mesi fa sembrava certo per lui in questa nazionale. Dario, stai lì, ci fermiamo, poi voglio sapere cosa pensano davvero gli italiani del campo di Manaus, perché gli inglesi sono scatenati, vi ho detto prime pagine oggi dei tabloid che parlano di autentica farsa per il campo non verde di Manaus, dove domani sera si gioca Italia-Inghilterra. Ho l'impressione che gli italiani stiano forse sottovalutando il problema, perché di problema si tratta. Abbiamo sentito prima Barzagli dire noi dobbiamo giocare a palla a terra, certamente quel campo non ci sarà d'aiuto. Tutti convocati. Torniamo in Brasile, Mangaratiba, 800-24-00-24, Dario Ricci, oggi il titolo del Daily Mirror, Italia-Inghilterra, il match dello spray, perché c'è questo campo che è davvero impresentabile, ma impresentabile non per un mondiale, impresentabile per, come scrivono gli inglesi, anche per una semplice partita parrocchiale di quelle della domenica mattina, figuriamoci per un'Italia-Inghilterra del mondiale. Io credo che questo mondiale noi italiani lo ricorderemo con gratitudine, perché probabilmente cancellerà per Italia 90 l'etichetta di peggior mondiale del dopoguerra. Però come la pensano nel gruppo di Prandelli sul campo di Manaus? Dario? Abbiamo, come giustamente ricordava Barzagli, diciamo la posizione ufficiale è quella di non enfatizzare troppo questo aspetto, almeno alla vigilia. È chiaro che è sicuramente un problema per il tipo di gioco azzurro, lo stesso Albertini, l'emergere Albertini ha detto che i passi del caso sono già stati fatti, con una lettera di segnalazione alla FIFA di questo problema, ma chiaramente non spetta alla Federcalcio poterlo risolvere né ai mezzi, no? Sì, noi siamo spettacolari, io sono convinto, Dario, che se poi sabato notte andrà male, domenica mattina parleremo molto di quel campo e diventerà improvvisamente la ragione della sconfitta. È anche vero, Giovanni, che è uguale per entrambe le squadre, chiaramente è pessimo per entrambe le squadre, quindi questo qualche cosa quantomeno per certi aspetti attenua questa polemica, se non per il fatto che chiaramente non è un campo assolutamente, come sottolineavi giustamente, all'altezza di un mondiale. Staremo a vedere quale sarà soprattutto la sensazione che troveranno oggi gli azzurri, che quel campo lo proveranno, e quindi forse avremo qualche idea in più. Ricordiamo la conferenza stampa di Prandelli alle 20.40 di Manaus, le 2.40 di notte in Italia, quindi vedremo appunto nel GR24 di domattina. Sì, allenamento oggi rigorosamente a porte chiuse, oggi domani, no, insomma, nell'avvicinamento alla partita. In realtà un quarticello d'ora lo potremo vedere, quindi qualcosina potremo capire, non di più, ma un potrete vedere i giocatori che si allacciano le stringhe. Per chiudere, Dario, ho letto oggi, incredibile, la storia dei guanti speciali anticaldo che i giocatori dell'Italia indosseranno alla fine della partita con l'Inghilterra, guanti refrigeranti per abbassare la temperatura del corpo e favorire il recupero. Ti risulta? Ah, guarda, questa non l'avevo ancora sentita, ma non lo escludo, e tra l'altro lo sai, anche il nostro mondiale è stato all'impronta della massima tecnologia, e come ogni sperimentazione avanguardistica dovremo vedere poi quale sarà la risposta dei fatti. Abbiamo parlato a lungo di casa Manaus, no? di questa casupola che a Coverciano, anche qui, ha riprodotto le condizioni di Manaus. Beh, adesso avremo proprio nella Manaus vera l'opportunità di testare la bontà di questo esperimento, così come sappiamo bene che gli azzurri sono stati monitorati con dei chip messi a punto da una startup in collegamento col Politecnico di Milano. Insomma, direi che non si è trascurato alcun dettaglio, e questo è un approccio assolutamente corretto a un mondiale del tutto particolare. Poi è chiaro che anche l'efficacia di questo lavoro ce lo dirà il campo spelacchiato, in questo caso di Manaus, se ha funzionato o meno. Grazie Dario, a domani. Grazie a voi, buona coppa. A domani, poi in realtà da stasera, ancora questa notte, poi domani mattina, in tutti gli appuntamenti di GR24 per raccontare tutto il mondiale, l'avvicinamento a Italia e Inghilterra. Massimo da Napoli, Massimo. Buonasera. Prego. No, allora il Brasile probabilmente migliora, in genere tutti i mondiali, mi sente? Sì, però le deve abbassare la radio. No, sono al telefono. Prego. No, la radio. No, mi scusi. Allora, il Brasile sicuramente migliorerà, però il problema è che il Brasile deve vincere questo mondiale, perché non è solo un problema di la vincita del 50 e del fatto che giocano in casa, ma perché noi siamo a 4 titoli, loro a 5. Se noi dovessimo arrivare a 5 sarebbe la morte del Brasile per almeno 50 anni, per smaltire il dolore. E non è un caso che hanno mandato un arbitro giapponese. Il Giappone è il paese che ha maggiori contatti con il Brasile, ci sono un sacco di giapponesi in Brasile e viceversa. E se lei si ricorda, prima della partita del campionato del Sudafrica, un giocatore brasiliano che gioca in Giappone con la nazionale giapponese fece male Drogba, che doveva giocare al mondiale contro il Brasile. E poi un giapponese è troppo timido per arbitrare una partita. Massimo, in quella lei è un fenomeno, questo è il trionfo del complottismo. Evidentemente nel 2010 non avevano detto a Nishimura che il Giappone è il paese con più contatti con il Brasile, perché Brasile-Olanda, quarto di finale, cartellino rosso contestato Felipe Melo, Brasile fuori, Olanda avanti, e in Brasile per 4 anni hanno parlato male di quell'arbitraggio fino a ieri sera. Grazie Massimo. Michele da Milano, Michele. Sì, salve, grazie di avermi convocato. Prego. Mi hanno anticipato perché volevo dirvi anch'io che il Brasile aveva già vinto in Europa una volta, è stata l'unica volta che una sudamericana sì, vince in Europa, viceversa, può succedere. Per quanto riguarda invece, assolutamente non voglio essere complottista, però in tutti i mondiali c'è sempre un favore per la squadra di casa, si è sempre visto. terribile quello con la Corea, un po' meno, un po' soffuso, un po' meno evidente in altri casi, però un pochino c'è sempre. Quest'anno c'è anche un disegno per il Brasile, ovviamente, ma si è visto chiaramente. Ovviamente. Comunque senza. No, secondo me non è ovviamente, secondo me ovviamente no, non ci scandalizziamo e secondo me, ripeto, quello di ieri è un incidente di campo, non c'è nessun complotto. Mi piace solo che gli unici a non averne approfittato siano stati proprio noi dell'Italia nel 90. Sì, anche la Francia nel 98, scrive qualcuno al 349-238-6666, in realtà arrivò in fondo senza grossissimi aiuti. Daniele da Modena, Daniele. Capuano, grazie per avermi convocato. Prego. Niente. Io volevo soltanto fare un piccolo intervento sulla questione del campo che si sente ormai da alcuni giorni, no? Del campo dove l'Italia giocherà, Manaus, campo di patate, eccetera. Ma io penso che i veri danneggiati non siano gli italiani, siano gli inglesi, che loro sono abituati a giocare su dei campi perfetti. In Italia, se guardiamo San Siro, il San Paolo, tanti stadi italiani sono più o meno come il campo dove giocherà l'Italia domani sera, quindi io penso che i veri danneggiati siano gli inglesi e non gli italiani. Sì, Marco Tardelli, che è allenato da quelle parti, ha però detto attenzione, il campo sfavorisce gli inglesi perché sono abituati a giocare su campi perfetti, però c'è anche da dire che il gioco inglese è un gioco un po' più fisico. Questa è un'Italia che Prandelli ha costruito soprattutto per fare possesso palla a centrocampo, il nostro tiki-taka, e quindi certamente fare il tiki-taka su quel campo lì che abbiamo visto sarà un po' più complicato. Secondo me invece non sarà complicato divertirsi da ora in poi con il nuovo proprietario della Sampdoria. Io non so se l'avete visto ieri, Massimo Ferrero, da testaccio detto erviperetta, che della Sampdoria ha detto questo. Visto che lei è uomo di cinema, questa avventura nella Sampdoria, che tipo di film sarà? Un colossal? Che tipo di film immagino? Immagino un menù. E poi, su, siccome è un uomo di cinema, su che cosa vuole fare? Spettacolo, business? Io voglio portare, no, un calcio spettacolo. E se lei me lo passa, dobbiamo cercare di fare le due cose, sia il business e sia lo spettacolo, perché le due cose devono andare in parallelo, perché se noi riusciamo a spendere e riprendere, non dico guadagnare, ma riprendere i soldi spesi, possiamo ricomprare e dare lavoro, dare spettacolo, dare notizie a lei e a quella sua bella cavalla. Grazie. E poi ha detto anche che batte 3-1 De Laurentiis, altro imprenditore del ramo cinematografico, che sta facendo benissimo con il Napoli, e chissà se a settembre a Genova possa tornare Cassano. Dopo il mondiale riporterà Cassano a Genova? Questo dobbiamo chiederlo sempre al nostro grande allenatore, perché no? Devi dire, il fulmine a ciel sereno, lo dobbiamo ripetere, no? Se non sarà lui, sarà un altro. Convocati. Come ci siamo detti dopo gara 2, prima di partire, il nostro obiettivo era comunque venire qua e provare a vincere 2, perché comunque siamo una buona squadra, abbiamo dimostrato durante tutto l'anno chi può vincere in trasferta, e diciamo che queste due partite sono state sicuramente ottime per noi, movimento di palla incredibile, difesa, tosti, e siamo avanti 3-1, ne manca ancora una, e sarà dura perché comunque Malini sicuramente è una squadra forte, però dai, ancora una. No, io faccio fatica a crederlo, Marco Bellinelli, un italiano, è a 48 minuti dal titolo NBA con i suoi San Antonio Spurs, inarrestabili, questa notte 107-86 a Miami, 3-1 nella serie, domenica notte il titolo davvero ad un passo, perché a questo punto basta vincerla quella partita lì in Texas, anche se è vero che questa è una serie folle in cui 3 partite su 4 hanno fatto saltare il fattore campo. Simone Sandri, ciao. Buongiorno Rani. Però oggi sembra difficile capire come Miami possa ribaltarla questa serie. Sì, allora se le ultime due partite sono un'indicazione, diciamo che è abbastanza segnata questa serie, questo non c'è dubbio. da quando Greg Popovich, che ha dimostrato ancora una volta secondo me di essere non solo il miglior allenatore dell'NBA ma forse uno dei migliori allenatori della storia dell'NBA, ha mescolato le carte e ha messo Boris Dio in quintetto, è cambiata drasticamente questa serie, c'è un movimento di palla che è spaziale, ma San Antonio sta giocando bene su tutti e due i lati del campo, sta facendo cose sinceramente che si sono viste raramente in una finale contro una squadra così forte come Miami. C'è un movimento di palla che è veramente eccezionale, veramente gara 3, gara 4 sono, a volte si esagera con questa espressione, ma veramente c'è un attacco da manuale da parte di San Antonio. Sembra veramente impotente la difesa di Miami. Detto questo, è vero che con il giocatore più forte del mondo che LeBron James, con comunque un cast che sta producendo veramente poco nelle ultime due gare, le speranze di poter almeno riportare la serie a Miami ci sono, perché in questo momento adesso Miami l'obiettivo è quello di vincere gara 5 per riportare la serie a Miami e poi provare a rigiocarla. Se guardiamo da un punto di vista realistico sembra abbastanza difficile. Sì, sembra difficile, tra l'altro è vero, gestione dell'attacco, fluidità, grandi numeri, poi c'è anche una difesa che nel primo tempo questa notte ha tenuto Miami abbondantemente sotto i 40 punti e che forse è stata la pietra angolare su cui San Antonio ha costruito il successo di questa notte, successo larghissimo, ci sono stati momenti, correggimi Simone, in cui ci sono stati anche più di 20 punti di distacco tra le due squadre. Sì, hanno toccato anche più 25, ma è veramente credo che gara 4 abbia fatto vedere questa sorta di veramente impotenza da parte di Miami, perché non dimentichiamoci che LeBron ha fatto una signora partita e nonostante un signor LeBron dava un'incredibile impressione di impotenza a Miami. San Antonio in attacco prendeva tutti i tiri che voleva, tirava la palla in maniera splendida, difensivamente faceva le cose giuste, per Miami prendere un buon tiro è stato veramente difficile, e per cui adesso che cosa può fare Spoelstra, cosa può fare LeBron? In linea teorica è sicuramente una molto difficile, i numeri non sono neanche dalla parte di Miami, perché nella storia delle finali NBA nessuno mai riterrà 3-1. È anche vero che, come ha detto Chris Bosh, se c'è una squadra che in teoria può recuperare un passivo così è Miami. Io sinceramente non ci credo, però se c'è un predestinato che può recuperare una serie così è LeBron. LeBron che è parso un po' solo, e non solo questa notte, sta rendendo per quello che viene atteso. Mi sembra gli altri che in questo momento sono al di sotto delle attese. Bellinelli invece pochino questa notte, 3-4 minuti quando la partita era ampiamente decisa, secondo te perché è passato da un utilizzo più importante all'inizio di questa serie a praticamente aver osservato gara 4 dalla panchina? Senza un vero motivo, nel senso Popovich allena per molto per istinto anche. Bellinelli paradossalmente ieri sera è andato due volte, alla fine del primo quarto e una nel terzo quarto al tavolo dei cambi, ed è dovuto tornare indietro mestamente perché Popovich ha cambiato idea. Nella prima situazione perché Spo ha rimesso dentro LeBron James, per cui non poteva togliere Leonard in quel momento Popovich. Nella seconda poi ha deciso di mettere Mills. La verità è che non c'è una vera ragione, nel senso, secondo me anche da un certo punto di vista giustamente Popovich ha letto la partita in un modo particolare. Mills stava facendo cose straordinarie sia in attacco, e non è una novità, ma anche in difesa, per cui ha dato qualche minuto in più a Mills anche come due, come guardia. Boris Dio gioca 36 minuti, per cui è un minutaggio altissimo per lui, ha fatto un effetto slavina, per cui ha tolto un po' di minuti a tutti. Purtroppo, per come stanno andando le cose, aveva anche un certo tipo di senso, perché veramente stava dominando San Antonio. Sì, questo significa che non si può escludere che invece domenica sera torni a essere protagonista come è stato in questi playoff, in questa stagione e anche all'inizio di questa serie di finale, proprio perché è stata una scelta, una lettura fatta da Popovich legata a questa partita. Assolutamente, e ti dirò di più, io ero dopo gara 3, dopo Marco ha giocato solo 6 minuti e ha fatto quella tripla che comunque è stato il canestro più importante del secondo tempo di gara 3, io ero convinto che avrebbe fatto più minuti. Lo stesso Popovich in conferenza stampa e nel prepartita aveva detto che Bellinelli avrebbe giocato di più, quindi eravamo un po' tutti convinti che avrebbe preso un minutaggio maggiore. E la partita però si è sviluppata in maniera molto, anche se vogliamo, imprevedibile, per cui Popovic ha cambiato, come gli capita spesso. Sì, ha cambiato piano tattico, esatto. Questo poi c'è anche che Belinelli abbia visto meno il campo. Grazie Simone. Grazie a te. Grazie Simone Sandri. Domenica notte, gara 5, quella che può regalare il titolo a San Antonio. Giuseppe da Milano. Giuseppe. Carissimo. Prego. Niente, volevo solo sdrammatizzare il tutto, dire comunque che in ogni campionato del mondo c'è sempre qualcuno che sbaglia e alla grande, e non si fa comunque niente, quindi questo la dice grande. Voglio dire solo come battuta così, questo arbitro giapponese che è molto bravo a tirare le righe, quindi utilizziamolo per fare le righe nel campo, così almeno... Sì, meravigliosa l'innovazione dello spray per tirare la riga davanti alla barriera, cosa che tra l'altro a me è piaciuta tantissimo, al di là che la barriera non si muove più, ci risparmiamo decine di secondi di sceneggiate. C'è il migliore di oggi? Il migliore di oggi, Luigi da Pisa. Luigi, sì, buon pomeriggio. Prego. Senti, io ho una statistica tutta mia. Sì. Se l'Italia supera i quarti finale può arrivare fino in fondo. Perché questo? Perché statisticamente c'è questo, voi fate i conti: 1970 finale persa, 82 finale vinta, 94 finale persa, 2006 finale vinta, ogni 12 anni. Sì. Ok? Negli anni precedenti alle vittorie siamo sempre usciti ai quarti. E quindi? Quindi se superiamo i quarti di finale sicuramente diciamo arriviamo alle semifinali. Questa è la mia statistica. Vinciamo il mondiale. Vabbè. Viva Spagna! Speriamo che non sbagli. Ci fermiamo qui. Franco Piantanide, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roba Scaltritti in regia. Mica male, No, mica male. Mica male anche che domani dalle 17 alle 18 siamo in onda, in diretta, tutto il periodo del mondiale, tutti convocati, weekend raddoppia, quindi domani 17-18, domenica 17-19, sempre con Dario Ricci, Pierluigi Pardo, anche con voi, che potete chiamare 800 24 00 24. Riepilogo della settimana, ciao a tutti. Marcello Lippi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Sara. Buongiorno. Ciao Marcello. Ho sempre detto che questo gruppo, per unità di intenti, per voglia di essersi, di cooperare, mi dà la sensazione che mi dava il mio gruppo prima di Germania. Mi ricordo più bello è la sintonia, la sinergia, l'alchimia che si era creata, questa cosa magica che si era creata di questo gruppo che era una cosa unita, compatta, forte. Danilo Gallinari, ciao. Ciao. Ma la società vuole mantenere la stessa squadra, sono stati molti infortuni, quindi la vera potenzialità della squadra non l'abbiamo mai vista quest'anno, e quindi per quello che credono molto nel gruppo che c'è, penso che non ci siano stravolgimenti particolari. Sono stufo di andare ai mondiali con l'umore sfigo cupo e pessimismo. Il mondo c'è già tra troppo casino, se uno è anche pessimista è un disastro, quindi bisogna essere ottimisti quando si può, bisogna essere ottimisti, però queste cose qua si parla di calcio e non di guerra. Il signor mangia. Buongiorno. Mister, buongiorno. Buon pomeriggio. Cesare ha sempre dimostrato in questi anni di aver adattato il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori, non si è mai fossilizzato su una linea. Come dicevo prima, sono due giocatori di qualità, per me i giocatori di qualità possono sempre giocare insieme, il problema è quando non ne hai i giocatori bravi, non quando ce li hai. E quando ce li hai il modo di farli giocare insieme in genere lo si può trovare. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?